ad alta voce. Maria Pajato legge «Невский проспект», «La prospettiva» di Николай Васильевич Гоголь, traduzione di Tommaso Landolfi. La bella che aveva così incantato il povero Piškaryov era in effetti una creatura incantevole e straordinaria. Di tanto più strana appariva la sua presenza in quella spregevole compagnia. Tutti i suoi lineamenti erano modellati con tale purezza. L'intera espressione del bel volto era improntata a tanta nobiltà che riusciva impossibile pensare che la corruzione l'avesse raggiunta coi suoi terribili artigli. Ella sarebbe stata l'inestimabile perla e tutto il mondo e l'intero paradiso e tutta la ricchezza d'un marito appassionato. Ella avrebbe potuto essere la lucente e quieta stella di un discreto cerchio familiare e avrebbe impartito dolci comandi con un solo moto delle sue belle labbra. Ella avrebbe potuto essere la divinità d'una sala piena di invitati con un parquet brillante al lume dei doppieri per la muta venerazione d'una folla di spasimanti prostrati ai suoi piedi. Ma, ahimè, per orribile capriccio dello spirito infernale, bramoso d'infrangere l'armonia della vita, ella era stata precipitata nel suo abisso. Penetrato d'una straziante compassione, sedeva il giovane davanti alla lampada accesa. Mezzanotte era passata da un pezzo. La campana della torre batteva la mezza ed egli sedeva, immobile, non dormendo né vegliando, una sonnolenza, profittando della sua immobilità, già cominciava piano piano a guadagnarlo. Già cominciava la camera a dileguarsi e solo la fiamma della lampada traspariva ancora di fra le soggiogate visioni, quando a un tratto un picchio alla porta lo fece sussultare e tornare in sé. La porta s'aprì ed entrò un domestico in ricca livrea. Nella solitaria camera non s'era ancor mai mostrata una ricca livrea e inoltre a quell'ora inconsueta. Il giovane perplesso guardava con impaziente curiosità il domestico che s'avanzava. «Quella signora», pronunciò il domestico con un deferente inchino, «che avete qualche ora fa visitata, mi invita a pregarvi di passare da lei e ha mandato perciò la carrozza». Piškaryov restava in silenzioso stupore. «Carrozza? Domestico in livrea? No, qui c'era senza dubbio un errore. Ascoltate, amico», disse egli timidamente. «Voi certo avete sbagliato. La signora va mandato da qualche altro, non da me». «No, signore, non ho sbagliato. Non siete voi che avete accompagnata la signora a piedi a casa sua, che è sita sulla Litinia in una camera del quarto piano?» «Sì, io». «Ebbene, allora, favorita in fretta, la signora desidera assolutamente vedervi e vi prega di passare direttamente da lei a casa». Piškaryov si precipitò giù per le scale. Nella corte, infatti, aspettava una carrozza. Vi prese posto, gli sportelli furono chiusi, le pietre del selciato rumoreggiarono sotto le ruote, sotto gli zoccoli dei cavalli, e la prospettiva di case illuminate con le brillanti insegne fuggiva oltre i finestrini della carrozza. Piškaryov rifletté per tutta la strada e non sapeva come spiegarsi l'accaduto. La casa, la carrozza, il domestico in ricca livrea. Tutto ciò egli non poteva menomamente conciliare con la stanza del quarto piano, con le finestre polverose e col pianoforte scordato. La carrozza si fermò davanti a un ingresso vivamente illuminato e nello stesso punto lo colpirono la fila di equipaggi, il chiacchiericcio dei cocchieri, le luci alle finestre e i suoni di una musica. Il domestico in ricca livrea lo aiutò a scendere dalla carrozza e rispettosamente lo accompagnò in un vestibolo con colonne di marmo, con un portiere cosparso d'ori, con mantelli e pellicce buttati qua e là e una lampada vivace. Un'aerea scalinata dai rilucenti balaustri, satura d'aromi, conduceva al piano superiore. Già il giovane la saliva, già entrava nella prima sala timoroso e impuntandosi sin dal primo passo per via dello spaventoso affollamento. La straordinaria varietà dei tipi lo gettò in una completa confusione. Pareva che qualche demone avesse spezzettato l'intero mondo in un'infinità di particelle e le avesse poi mescolate alla rinfusa, senza senso o disegno alcuno. Le lustre spalle delle dame e le nere marsine, i lampadari, le lampade, le aeree tarlatane ondeggianti, gli eterei nastri e il pingue contrabbasso che faceva capolino dalla ringhiera del lussuoso palco della musica. Tutto gli appariva stranamente brillante. Vide in una sola volta tanti mai rispettabili vecchi e semivecchi con stelle sui frac, tante mai dame così leggermente, alteramente e graziosamente procedenti sul parquet o sedenti in fila, udì tante mai parole francesi e inglesi, e poi i giovani, nelle loro nere marsine, erano pieni d'una tal nobiltà, con tale dignità parlavano e tacevano, tanto bene sapevano non dir nulla di superfluo, con tanta imponenza scherzavano, tanto rispettabilmente sorridevano, tali superbi scopettoni portavano, con tanta arte sapevano, aggiustandosi la cravatta, mettere in mostra le magnifiche mani. Le dame erano tanto aeree, tanto immerse in una completa soddisfazione ed ebbrezza di sé, tanto incantevolmente abbassavano gli occhi che... Ma il solo umile aspetto di Piškarjov, il quale timorosamente si addossava a una colonna, diceva abbastanza che egli si sentiva del tutto sperduto. In quella... La moltitudine circondò un gruppo di danzatori. Le dame volteggiavano, avviluppate in trasparenti creazioni di Parigi, in abiti tessuti di mera aria. Incurantemente sfioravano esse coi brillanti piedini il parquet ed erano più eteree che se non lo sfiorassero neppure. Ma una tra loro era di tutte la più bella, la più lussuosamente e brillantemente vestita. Un ineffabile insieme di gusto sottile si esprimeva da tutta la sua acconciatura. E tuttavia ella non pareva farvi menomamente attenzione, quasi ciò fosse involontario e fosse così di sua propria virtù. Ella guardava e non guardava la turba degli spettatori circostanti. Le sue belle, lunghe ciglia s'abbassavano con indifferenza e il brillante candore del suo viso abbagliava anche di più quando un'ombra leggera addugiava al chinar che faceva il capo l'incantevole fronte. Piškarjov fece ogni sforzo per scostare la folla e contemplare la dama. Ma con suo sommo dispetto un'enorme testa di capelli scuri e crespi gliene intercettava continuamente la vista. Inoltre la folla lo stringeva tanto che egli non osava farsi indietro né innanzi, temendo d'urtare qualche consigliere segreto. Ma ecco, gli venne fatto ugualmente di tirarsi indietro e di dare un'occhiata al suo proprio abito che desiderava aggiustar per benino. Dio del cielo, che era ciò? Egli aveva indosso il soprabito e per di più imbrattato di colore. Nella fretta d'uscire s'era persino dimenticato di indossare un abito adatto alla circostanza. Arrossì fino alle orecchie e abbassando la testa voleva battere in ritirata, ma assolutamente non si poteva. I gentiluomini di camera nel loro sgargiante costume costituivano dietro di lui una vera muraglia. Egli ormai avrebbe desiderato trovarsi mille miglia lontano dalla bella con la fronte e le ciglia incantevoli. Alzò gli occhi spaventato per vedere se ella non lo guardasse. Dio, ella gli stava davanti. Ma che è questo? Che è questo? È lei, esclamò quasi in un grido. E infatti era proprio lei. Quella medesima che aveva incontrata sulla prospettiva e accompagnata a casa. Ella levò frattanto le ciglia e guardò tutti col suo chiaro sguardo. Ai ai ai ai, com'è bella! Poté soltanto articolare egli col fiato sospeso. Ella percorse con gli occhi l'intero cerchio di persone che a gara bramavano trattenere la sua attenzione, ma con una specie di languore e di incuranza presto ne distolse lo sguardo e incontrò allora quello di Piscariov. Oh, che paradiso! Che celeste felicità! Appresta forze, creatore, da sopportarla. Un'intera vita non ne contiene tanta. Essa spezzerà l'anima e l'annichilirà. Ella fece un segno, ma non già con la mano. Non già con un cenno del capo, no. Nei suoi fatali occhi si espresse questo segno, in un'inflessione così sottile e impercettibile che nessuno poté vederlo, ma lui lo vide, lo capì. Le danze si protrassero a lungo. La musica illanguidita pareva volersi spegnere del tutto e morire, e all'improvviso staccava di nuovo, squittiva e tuonava. Finalmente si tacque. Ella sedé. Il suo petto si sollevava sotto il leggero velo della tarlatana. La sua mano, Dio che incantevole mano, cadde sulle ginocchia, premé l'etereo abito, e l'abito sotto di essa parve spirare musica, e il suo delicato color lilla anche meglio rivelò il vivo candore di quella incantevole mano. Soltanto toccarla e nulla più. Nessun altro desiderio, qualunque altro desiderio sarebbe turpe. Egli stava in piedi dietro la seggiola di lei e non aveva il coraggio di parlare neppure di fiatare. «Vi siete annoiato?» disse ella. «Anch'io mi sono annoiata. Ma vedo che voi mi detestate», aggiunse abbassando le lunghe ciglia. «Detestarvi? Io? Io?» andava dicendo al colmo della confusione Piscariov. E avrebbe senza dubbio aggiunte chissà quante altre parole e delle più sconnesse se in quella non fosse sopraggiunto un ciambellano con certe sue spiritose e piacevoli osservazioni e col suo magnifico ciuffo arricciato sulla testa. Questi poneva assai gradevolmente in mostra una fila di denti abbastanza belli e con ogni sua spiritosaggine ficcava un'acuta spina nel cuore del giovane. Finalmente, per fortuna, qualcuno degli invitati chiese qualcosa al ciambellano. «Come tutto ciò è insopportabile», disse ella, levando sul giovane i suoi occhi angelici. «Andrò a sedermi all'altro capo della sala. Siatevi», scivolò tra la folla e scomparve. Egli, come un pazzo, fendendo la turba, era già là. Eccola, sedeva come una regina, la migliore, la più bella di tutte, e lo cercava con gli occhi. «Siete qui?» proferì piano. «Sarò sincera con voi. A voi saranno certo sembrate strane le circostanze del nostro incontro. Potete davvero pensare che io appartenga a quella spregevole categoria di persone fra cui m'avete incontrata? A voi parrà strano il mio modo d'agire, ma io vi svelerò il segreto. Sarete però in grado, soggiunse ella guardandolo fissamente negli occhi, di non tradirlo mai? Oh sì, sì, sì, sì. Ma a questo punto sopravvenne un signore abbastanza attempato. Parlò con lei in una lingua sconosciuta a Piscariov e le porse la mano. Ella fissò su Piscariov uno sguardo supplichevole e gli fece segno di restare al suo posto e di attendere il suo ritorno, ma in preda a un accesso d'impazienza. Egli non ebbe la forza d'obbedire ad alcuna ingiunzione, neppure delle sue labbra. Si mosse dietro a lei, ma la folla li divise. Non vedeva più l'abito color lilla. Correva inquieto di stanza in stanza, urtando senza misericordia quanti incontrava, ma in tutte le stanze attraversate non c'erano che giocatori di whist immersi in un silenzio sepolcrale. Nell'angolo invece d'una stanza, alcuni signori anziani discutevano della supremazia del servizio militare di contro al civile. In un altro, persone in marsina inappuntabile lanciavano frizzi sull'opera in molti tomi di un certo poeta assai fecondo. Piscariov sentì che un signore anziano di aspetto rispettabile lo prendeva per un bottone del frac e sottoponeva al suo giudizio un'osservazione assai acuta, ma egli lo respinse bruscamente senza neppure rendersi conto che quegli aveva al collo una decorazione abbastanza importante. Corse in un'altra stanza. Ella non era neanche qui. Una terza, neppure. Dov'è? Datemela. Oh, io non posso vivere lungi dalla sua presenza. Io voglio udire ciò che ella voleva dirmi. Ma tutte le sue ricerche restarono vane. Irrequieto, oppresso, si strinse a un angolo e guardò la folla. Ma i suoi occhi affaticati cominciarono a presentargli ogni cosa sotto un aspetto vago e impreciso. Finalmente cominciò a vedere distintamente le pareti della propria stanza. Levò gli occhi. Davanti a lui stava la bugia con la fiammella quasi spenta dentro. La candela s'era tutta consumata. La cera era colata sul tavolo. E così aveva sognato. Dio, che sogno! E perché aveva dovuto svegliarsi? Perché non aspettare ancora un momento? Ella certo sarebbe ricomparsa. Una luce uggiosa col suo sgradevole, incerto chiarore penetrava dalla finestra. La stanza era in tale bigio, opaco disordine. Oh, com'era repellente la realtà! Che era essa mai a petto al sogno? Egli si spogliò in fretta, si mise a letto e s'avvolse nella coperta, volendo riafferrare la visione che s'involava. Infatti il sogno non tardò a venire, ma gli prestò tutt'altre immagini di quelle che avrebbe voluto. Ora gli appariva il tenente Piragov con la sua pipa, ora il custode dell'accademia, ora un consigliere attuale, ora la testa d'un finlandese cui aveva una volta fatto il ritratto, e simili sciocchezze. Fino al pomeriggio restò coricato, cercando ad addormentarsi, ma ella non si mostrò. Avesse almeno per un solo istante svelate le sue incantevoli fattezze, avesse il suo passo leggero frusciato per un solo istante, gli fosse balenata innanzi la sua mano nuda, abbagliante come la neve delle cime. A ogni cosa disinteressato, di tutto dimentico, sedeva egli affranto e sconsolato in vista, pieno solo d'un'unica visione di sogno. Nulla poteva intraprendere. I suoi occhi, senza alcuna partecipazione, senza alcuna vita, guardavano per la finestra, affacciante su una corte dove una sudicia gronda stillava acqua che gelava per aria. E la voce di capra del merciaio ambulante belava «Chi vende vestiti vecchi?». Il quotidiano e il reale, colpivano stranamente il suo udito. Così restò seduto fino a sera e quindi si coricò bramoso. A lungo lottò con l'insonnia. Infine n'ebbe ragione. E di nuovo un sogno qualunque. Un sogno volgare e piatto. Dio abbi compassione. Anche solo per un istante, anche solo per un istante, mostramela. Ancora una volta attese la sera, ancora una volta s'addormentò e ancora una volta sognò non so che impiegato, il quale era al tempo stesso un impiegato e un contrabbasso. Oh, era intollerabile. Finalmente ella si mostrò, la sua testina, i suoi boccoli, e la guarda, oh, come presto è svanita. E di nuovo nebbia, di nuovo qualche stupida immagine. Infine, le visioni del sogno divennero la sua vita e tutta la sua esistenza prese una strana piega. Dormiva da sveglio e vegliava nel sonno. Se qualcuno l'avesse veduto quando sedeva in silenzio davanti al tavolo vuoto o quando camminava per la strada, l'avrebbe certo preso per un lunatico o un alcolizzato. Il suo sguardo era completamente atono. La sua naturale distrazione s'accrebbe e da ultimo scacciò trionfante dal suo volto ogni sentimento e ogni moto. Egli si rianimava solo al sopravvenire della notte. Un simile stato logorò le sue forze e la sua più grande sofferenza fu che alla fine il sonno lo abbandonò del tutto. A salvare questa sua estrema ricchezza, egli impiegò ogni mezzo. Aveva sentito che per procurarsi il sonno basta prendere dell'oppio. Ma dove trovare quest'oppio? Si rammentò di un certo persiano, tenutario di una bottega di scialli, il quale, quasi ogni volta che lo incontrava, lo pregava di dipingergli una bella donna. Decise di andare da lui, supponendo che da lui si potesse trovare dell'oppio. Il persiano lo riceve seduto su un divano, con le gambe ripiegate sotto di sé. «Perché ti serve l'oppio?» gli chiese. Piscariov gli raccontò della sua insonnia. «Va bene». Ti darò l'oppio, soltanto devi dipingermi una bella donna, ma che sia una vera bellezza, che le sopracciglia siano nere e gli occhi grandi come olive, e io stesso che le giaccia vicino e fumi la pipa. Intendi? Che sia bella, che sia una bellezza. Piscariov promise tutto. Il persiano uscì un momento e tornò con una fiala piena di un liquido scuro. Cautamente ne versò una parte in un'altra fiala e consegnò questa a Piscariov, con la raccomandazione di non prenderne più di 7 gocce nell'acqua. Avidamente il giovane afferrò la preziosa fiala, che non avrebbe data per un mucchio d'oro, e a tutta carriera corse a casa.